cavano la conversa ammazzata dalla monaca di Monza e da frate dal suo amico Egidio, Manzoni scriveva: se invece di cercare lontano si fosse scavato vicino, avrebbero saputo più cose. Ecco, noi spesso con la musica facciamo lo stesso errore, andiamo a guardare lontano invece di scavare vicino, e quindi molto spesso non siamo capaci di vedere cosa abbiamo di eccezionale in casa nostra. E lo facciamo anche perché ci stiamo dedicando a una mostra che si chiama Noi non erano solo canzonette, una mostra che propone un viaggio di 25 anni attraverso 100 brani del nostro patrimonio musicale. Ecco, quindi andiamo di nuovo all'interno della grande musica d'autore italiana e oggi vi riproponiamo la storia di Sergio Endrigo e della sua voglia di raccontare momenti intensi all'interno dei fantastici e spumeggianti anni 60. Beh, e per inquadrare bene il personaggio di oggi bisogna partire da lontano, tornare indietro nel tempo, negli anni subito successivi alla fine della guerra. Ci troviamo in Istria, che oggi è la Croazia, ma fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale eravamo in territorio italiano e la penisola istriana e altre zone limitrofe sono state sacrificate dopo la fine della guerra e l'Italia a tutti gli effetti era uscita come la nazione perdente, da schiacciare come un insetto. Quando si perde bisogna rinunciare, e così il maresciallo Tito si annette la penisola, le altre zone della costa dove oggi si trovano Fiume, Pola, Ragusa, che oggi si chiama Dubrovnik. Gli abitanti italiani di quelle zone, che hanno già sofferto durante la guerra con deportazioni e le rappresaglie, con l'orrendo martirio delle foibe, si trovano stranieri in terra straniera e così decidono di andarsene. Lo fanno nel modo peggiore possibile, vengono cacciati dagli stessi vicini e conoscenti che il giorno prima erano amici, e scappano come profughi, tornano in Italia, trattati malissimo anche dall'Italia. Il famoso un titolo dell'Unità che dice: rimandiamo via quei fascisti, parlando invece di vecchi bambini profughi. E quindi in questo scenario arriva la nascita di tante persone che hanno fatto molta strada, ne abbiamo già parlato di alcune, Nino Benvenuti per esempio, ma nasce anche Sergio Endrigo. Sono nato a Pola il 15 giugno 1933, a mezzogiorno in punto, da Romeo Endrigo e Claudia Smareglia. Mio padre Romeo era figlio di uno scalpellino che aveva la sua baracca di lavoro proprio davanti al cimitero. Mio padre, assolutamente autodidatta, si dedicava anche alla pittura e divenne uno scultore molto conosciuto a Pola. Inoltre, era anche un tenore. Insomma, la musica entra nella casa di Sergio Endrigo dalla porta principale. Ha il padre che si diletta in canto, si esibisce come tenore negli anni 20 anche a Milano. Però il destino fa sì che il piccolo Sergio perda suo padre quando ha solo 6 anni. Pochi anni dopo, Sergio Endrigo inizia, per così dire, a calcare le scene, cantando in piedi sul tavolo dell'osteria che c'è dietro a casa sua. Lui intrattiene i clienti che aspettano di mangiare. Il padrone dell'osteria, soprannominato Beppi Mustaccia per via dei lunghi baffi, lo ricompensa con qualche lira. Però, quando arriva all'età di 14 anni, lui e sua madre sono costretti a tornare in Italia, precisamente a Venezia, dove avviene un baratto, una collezione di francobolli in cambio di una chitarra che è facile da imparare per suonare qualcosa mentre si canta con gli amici. Bene, quella chitarra diventa una compagna di viaggio che non abbandonerà più Sergio Endrigo per tutta la vita. La vita dei profughi istriani è tragica, è complicata, sono in molti a cambiare città, lo avete sentito ascoltando, non so, la storia di Laura Antonelli. La stessa cosa accade a Sergio Endrigo. Dopo Venezia devono andare fino a Brindisi, 3 anni di collegio da cui Endrigo viene espulso per non aver voluto svolgere un tema secondo le indicazioni degli insegnanti, e sembra una bravata, ma in realtà dobbiamo capire che questa forma di insubordinazione da parte di Endrigo è già il seme per una anima fuori dal coro, e accadrà di nuovo qualche anno più tardi. Nel 1950 da Brindisi tornai a Venezia. Mi misi a fare il fattorino, il lift boy negli hotel. Poi mia madre mi disse che c'era la possibilità di entrare alle poste come portalettere e che con un po' di fortuna avrei potuto arrivare a lavorare allo sportello raccomandate. Io le risposi che per niente al mondo avrei voluto lavorare in Poste e che da quel momento mi sarei arrangiato da solo. Eh sì, la storia di tutti gli artisti ha un episodio del genere, un posto in banca, un posto a lavorare col padre, e la storia degli artisti è anche la storia di un atto di coraggio, se preferiamo un colpo d'ala. Così Sergio Endrigo prova a fidarsi alla IRO, che è l'Organizzazione Internazionale dei Rifugiati. Vorrebbe scappare dalla realtà che sta vivendo in Italia, sogna il Canada, l'Australia, invece rimane qua, lo fa per la sua grande passione per la musica. Inizia a suonare nei bar del Lido di Venezia, poi nei night club. È un periodo che dura 7 anni, in cui Sergio fa molte esperienze, impara a stare sul palco, suona i classici Bing Crosby, Frank Sinatra, i grandi del jazz e dello swing americano. E poi suona il contrabbasso in un'orchestra di quelle serie, quelle che incidono i dischi per un'etichetta che allora era tra le più forti, la voce del padrone. Però anche questa vita comincia a stargli stretta, torna l'inquietudine di essere costretti a fare quello che ti dicono gli altri, ci vuole un colpo d'ala, come quando si è fatto espellere dal collegio. Avevo 26 anni e mi sono visto a 60 anni ancora col contrabbasso in mano a cantare My Funny Valentine, e la cosa non mi entusiasmava molto. Guadagnavo bene, mi divertivo, ma non c'era un futuro. Decisi allora di giocare la carta discografica come cantante. Se non fossi riuscito, me ne sarei andato in Australia o in Canada a lavorare, dimenticando la musica. Però per giocare la carta discografica bisogna fare una cosa: preparare i bagagli e partire di nuovo. E questa volta la destinazione è la città che è la culla della musica, della discografia italiana. E in quegli anni chiunque voleva fare musica doveva venire lì, anzi qui, a Milano. L'indirizzo: via Giovanni Berchet 2, Casa Ricordi. Stiamo raccontando il grande Sergio Endrigo e siamo arrivati al momento in cui lui prova a giocare la carta vincente per cambiare la sua vita, perché si trasferisce a Milano, culla della musica, della discografia, tenta la fortuna come cantante solista. Siamo nel 1960, il centro di Milano in quegli anni è il centro del mondo per qualsiasi musicista, anche perché lì ci sono i signori della musica, che erano gente che di musica ci capiva, e tanto. Per esempio c'è un signore che si chiama Nanni Ricordi, che è lo pseudonimo di Giovanni Carlo Emanuele Ricordi. È un uomo che con Carlo Crepax ha fondato la Dischi Ricordi, una casa discografica che è stata una fucina di talenti. Per dire, in quegli anni la Dischi Ricordi ha in scuderia parte con Gaber, Iannacci, Tenco, Ornella Vannoni e Gino Paoli. Anche lui è fautore di un grande colpo d'ala, perché intuisce nei Ricordi che la musica non deve essere venduta solo attraverso gli spartiti. È il momento di allargare la base, perché gli spartiti servono a quelli che suonano, ma se tu fai della musica e la fai ascoltare agli altri, arrivi a tutti. Insomma, Ricordi dà un impulso fondamentale alla nascita del mercato discografico moderno. C'erano Gianfranco e Giampiero Reverberi come arrangiatori. C'era il gruppo che ci accompagnava in studio, i Cavalieri della Tavola Rotonda, perché Tavola Rotonda si chiamava una sottoetichetta della Ricordi dove incidevano molti di noi. C'era insomma un nutrito scambio di idee. Dopo aver firmato il contratto, Nanni Ricordi mi chiese a bruciapelo: «Ma lei non scrive canzoni?» E io gli risposi di no. Poi sono tornato a casa, ho preso la chitarra e ho scritto Bolle di Sapone, la mia prima canzone in assoluto. Bolle di Sapone, il primo disco di Sergio Endrigo. A volte basta poco per capire cosa si vuol fare nella vita. Dopo anni passati a fare il musicista, Endrigo si scopre cantautore. Questa canzone è la prima di una serie di canzoni che pubblica per la Ricordi. Poi, tra l'altro, non è ancora iscritto alla SIAE e gli capita una cosa che sarebbe capitata a molti, tra cui al sottoscritto, cioè i primi pezzi vengono firmati da altri autori e tu rimani un pochino fregato, ma insomma pazienza, l'importante è cominciare. Poi nel 62 Nanni Ricordi lascia Milano per diventare direttore artistico dell'RCA a Roma, perché Roma sta diventando un secondo polo molto importante. L'RCA di Roma poi cambierà la storia della musica, la storia soprattutto dei cantautori. Molti artisti lo seguono. per Sergio Endrigo è di nuovo il tempo delle valigie, perché vuole andare a Roma con il suo mentore Nanni Ricordi. Questa volta è un trasferimento definitivo, perché il destino porterà Endrigo a trascorrere tutto il resto della sua vita proprio a Roma. Nel film La rimpatriata di Damiano Damiani con Walter Chiari c'è una canzone che si chiama La rosa bianca, scritta da Sergio Endrigo su un testo che è un adattamento di una poesia di José Martí, un poeta cubano, quello di Guantanamera per intenderci. L'idea per scrivere questa canzone, partendo da una poesia, è di un musicista che collabora con l'RCA, perché in quegli anni le persone che ruotavano attorno alla discografia erano tutte di un talento grandissimo. Per esempio, in questo caso, il musicista si chiama Luis Bacalov. Proprio in quegli anni inizia un sodalizio artistico con Endrigo, è un sodalizio che durerà a lungo. Il primo grande successo di Sergio Endrigo però era stato dell'anno precedente, il 62. Venne pubblicata in quell'anno una canzone che vende in poche settimane 650.000 copie. Rimane uno dei successi più conosciuti di Endrigo. Il titolo è Io che amo solo te. Con questa canzone Sergio Endrigo entra di diritto a far parte di quella cerchia di cantautori che hanno cambiato e fatto grandi gli anni 60. Fra il buon gusto, Peppino Gagliardi, Luigi Tenco, partecipano a quei film che si fanno in quel periodo, i musicarelli, che non sono altro che una specie di lungometraggio che è un primo abbozzo di quelli che saranno i video musicali, perché nei musicarelli si sviluppa una storia spesso fragile, con magari attori anche importanti, Totoni, Taranto, però questa storia viene interrotta ogni momento da un video musicale di qualche famoso cantante dell'epoca. Così Endrigo compare in Questi pazzi pazzi italiani e in 008 Operazione Ritmo, diretti da Tullio Piacentini. Nel 1965 lasciai la RCA per passare alla Phonic Cetra. Fu una scelta non per denaro, in quanto la RCA mi offriva praticamente la stessa cifra, ma perché volevano farmi incidere Varum Nur Varum di Udo Jürgens, divenuta poi Peccato che sia finita così, con il testo in italiano di Franco Migliacci. Io decisi di andarmene perché l'atmosfera che si era creata mi risultava veramente sgradevole, per il fatto che qualcuno volesse impormi che cosa dovessi o non dovessi cantare. Cambiare casa discografica in quegli anni era una scelta delicata, perché potevi fare grandi balzi in avanti oppure grandi passi all'indietro. In quegli anni fare il Festival di Sanremo, per esempio, aveva una grandissima importanza, perché il festival era l'unica vetrina per il grande pubblico televisivo, quindi vincere aveva un grande significato, ma comunque partecipare, andare in finale era molto importante. E Endrigo partecipa nel 66 per la prima volta con Adesso Sì, e poi si ripresenta nel 68 in coppia con un ragazzo brasiliano che si chiama Roberto Carlos, e la canzone è Canzone per te. Tra gli autori di quel pezzo c'è ancora una volta Bacalov, ma c'è anche Sergio Bardotti, uno dei più grandi autori della musica italiana. Ha scritto moltissime canzoni, anche recentemente quella Carezza della sera di New Trolls, o Ti lascerò di Fausto Leali e Anna Oxa, quindi anche canzoni importanti parecchi decenni dopo. Io non sono mai stato un bravo paroliere. O le mie canzoni nascevano con musica e testo, come Io che amo solo te e la maggior parte delle mie canzoni, oppure avevo bisogno di aiuto. E Bardotti era bravissimo. La festa appena cominciata è già finita, il cielo non è più con noi. Con questi versi inizia questa canzone. E la festa invece non è finita, anzi, la canzone a sorpresa vince il Festival di Sanremo del 1968. Batte gente come Celentano, Milva, tutti i grandi cantanti di quel periodo si devono inchinare a quella che secondo me è la più bella canzone che abbia mai vinto il Festival di Sanremo. E ve lo dice uno che lo ha vinto due volte, però questa era veramente la canzone più bella che possa aver vinto un festival. Con Roberto Carlos lui collabora, ed è la prima di una serie di collaborazioni con tanti grandi artisti brasiliani: Toquinho, Vinicius de Moraes, Chico Barque di Olanda. Sergio Endrigo, proprio grazie a questa vittoria, darà un colpo d'ala alla sua carriera e continuerà a cantare una canzone veramente bella, e tra l'altro non a caso, insomma, anche altri l'hanno cantata. Il Falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo stiamo raccontando la storia di uno dei più grandi cantautori italiani, Sergio Endrigo, un uomo che ha scritto grandi successi che ancora oggi vengono reinterpretati da cantanti, da gruppi che magari piacciono anche ai più giovani, magari con altri arrangiamenti. Se oggi raccontiamo la storia di questo grande artista, lo dobbiamo anche a un nostro ascoltatore, Fabio, che insieme a molti altri ce l'ha chiesto a gran voce. A casa mia, osservando Paco, il mio pappagallo, Vinicius aveva scritto: «Ma che bello pappagallo, tutto verde e l'occhio giallo». Quella frase mi piacque subito. Ci mettemmo in tre per finire il testo. Io, Bardotti e Bakalov. Molto spesso le canzoni nascono dal nulla, dal caso. Paco è un grande pappagallo che ha vissuto per molti anni in casa Endrigo. Questo aneddoto ci serve per sottolineare che il Vinicius di cui parla Endrigo è Vinicius de Moraes, quello di Garota de Ipanema, uno dei padri della musica brasiliana. Bene, molti conoscono questa canzoncina per bambini, ma pochi sanno che con Sergio Endrigo Vinicius de Moraes ha scritto il suo primo album in italiano, La vita, amico, è l'arte dell'incontro. E questo non è un titolo, è già una poesia. Tra le collaborazioni e i testi in questo disco si legge anche il nome di un certo Giuseppe Ungaretti. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Pensate che invece per molte persone in Italia, direi per le più superficiali, Endrigo è sinonimo di canzoni per bambini, perché un grande successo è stato Ci vuole un fiore, scritta e pubblicata nel 74. Anche questa volta però quello che sembra essere un gioco è in realtà una grande collaborazione artistica, perché l'idea di una raccolta di canzoni per i più piccoli viene a Endrigo è stanco di sentire testi troppo semplici allo Zecchino d'Oro. Allora, come se niente fosse, chiama Gianni Rodari e sui suoi testi compone con Bakalov le 9 canzoni racchiuse appunto in un album che a suo modo sarà storico. L'album si chiama Ci vuole un fiore. E la carriera di Endrigo continua fino all'inizio degli anni 80, altri festival di Sanremo, ricordiamoci Lontano dagli occhi, L'arca di Noè, altri successi, poi concerti in giro per il mondo, collaborazioni con altri grandi artisti come per esempio Toquinho. Poi magari il successo diminuisce, diminuiscono le apparizioni televisive, i suoi dischi cominciano a essere promossi meno di quanto dovrebbero. Insomma, lui pubblica 5 album molto belli che però passano senza avere successo meritato. Sembrano lontani i tempi di brani come Lontano dagli occhi, appunto. E per raccontare ancora qualcosa di Sergio Endrigo dal profilo di chi lo conosceva ovviamente molto meglio di noi, ho al telefono una persona alla quale voglio molto bene, che sento molto volentieri, che è Claudia, la figlia di Sergio Endrigo. Buongiorno Claudia. Buongiorno Enrico, ciao, che piacere. Allora, Sergio Endrigo ha sofferto, secondo me, nella prima parte della sua carriera, quando tu eri non nata o tutt'al più bambina, del fatto che veniva definito un cantante triste. C'è stato anche un periodo in cui Noschese lo imitava, secondo me anche in maniera non esattamente di buon gusto. Peraltro è vero che poi tuo padre lo chiamò? No, disse a Bernardini, mi sembra, o qualcuno che lo conosceva, sì, che se avesse continuato a fare quelle imitazioni gli avrebbe spaccato la faccia. Abbastanza improbabile, conoscendo mio padre. No, infatti. Però sì, devo dire, insomma, per far la bara ci vuole il morto, a posto di Ci vuole un fiore, insomma. Sì, sì, sì. Mio padre era un uomo estremamente spiritoso, ma qui non ci trovo niente di spiritoso, trovo molto di cattivo gusto anch'io. Sì, infatti non fu uno dei momenti migliori, diciamo. No, un po' anche perché papà è inimitabile, cioè io vedo anche nelle trasmissioni che fanno, e non lo imita nessuno, perché non aveva delle caratteristiche particolari, no? Era molto fermo, molto tranquillo, non aveva una grande gestualità, non aveva, quindi era anche difficile da imitare, no? E quindi non scrive, si era inventato questa cosa, però insomma non troppo carina, diciamo, ecco. Dunque, intanto confermo che tuo papà, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, era una persona di grande ironia, pacata, cioè non era un cacciarone, però era una persona assolutamente spiritosa. Ci dai un breve ricordo di lui proprio come padre, perché del cantautore e del musicista stiamo parlando già da molto, ma come padre? Ma come padre è stato un padre affettuosissimo, noi ci siamo amati immensamente. Mio padre era, quando sono nata, veramente non ci ha più capito niente. Dicevano tutti che eravamo pazzi l'uno dell'altra. Poi, come spesso succede, insomma, ci sono state delle incomprensioni, però è sempre stato un padre molto dolce. E soprattutto una cosa che ho apprezzato moltissimo, non mi ha mai imposto nulla, non era mai uno di quei genitori che imponeva le cose, no? Mi disse solo che gli sarebbe piaciuto se avessi studiato, quindi fatto magari l'università o studiato bene uno strumento eccetera, perché lui non aveva avuto la possibilità economicamente, invece avrebbe voluto farlo, però non mi ha mai rinfacciato, cioè mi ha sempre lasciato libera anche di sbagliare. E questo credo che sia fondamentale per un genitore, ci deve essere, però non deve poi imporre. Certo, da uomo libero, insomma, da uomo libero qual era, non poteva imporre ad altri alcunché, esatto. Secondo me. Senti, anche perché poi, perdonami, ma sì, l'hanno sempre definito un uomo di sinistra, ma in realtà mio padre era un anarchico, profondamente, sì, come lo sono anch'io. Non ne dubito, infatti. Lui, negli ultimi anni, l'ultima volta che l'ho conosciuto, insomma, era un po' come molti di cantautori, devo dire me compreso, era un po' disilluso dalla piega che stava prendendo lo show business italiano nel ramo. Intanto primo vorrei sapere se sei d'accordo su questa mia diagnosi, cioè se ci ho visto giusto, e poi ti faccio un'altra domanda dopo. Dimmi intanto se è vero quello che mi è sembrato. Ma sì, assolutamente sì, soprattutto sembrava che la carriera di mio padre si fosse fermata a Ci vuole un fiore, cioè che dopo Ci vuole un fiore non avesse più fatto niente, quando l'ultima sua canzone struggente e meravigliosa è Altre emozioni, che è datata 2003. Sì. E quindi all'improvviso era diventato cantatore per bambini, cosa che non è mai stata, perché ha avuto la fortuna di collaborare e di poter musicare Vinicius De Moraes e Rodari, ma certo, non ha mai scritto una frase per i bambini. E quindi insomma devo dire che gli ultimi anni lo costringevo quasi a rifiutare gli inviti, perché insomma andare lì a fare la canzoncina, che per carità è una canzone meravigliosa che viene cantata ancora, viene insegnata nelle scuole, è stata una parentesi, certo, meravigliosa. Però papà era ben altro, insomma, era tanto altro, ecco. Certamente, e infatti devo dire che forse ha collaborato di più con stranieri che con italiani, quasi, cioè duetti, cose, interesse, cioè c'era un interesse da parte di tutto quel mondo che conosce bene il sentimento dello struggimento nella musica fatta bene, quindi parlo dei brasiliani, in qualche modo, sì, forse lo hanno adottato con... Parlo di musicisti e non del pubblico che è sempre stato con lui, ma di musicisti, hanno forse avuto più attenzione loro verso Endrigo. Assolutamente sì, poi tra lui e Vinicius De Moraes c'è stato veramente un colpo di fulmine, cioè, sono stati legati da una grandissima amicizia che poi li ha portati anche a delle collaborazioni strepitose. Mio padre aveva bisogno proprio del rapporto umano, no? Anche con Bardotti, col quale ha scritto certo, le canzoni più belle, c'era al di là del rapporto professionale un grande rapporto d'amicizia, erano compagni di merende poi, però sì, il Brasile c'è stata una grandissima intesa ricambiata. Claudia, io ti ringrazio, sei stata gentilissima e noi continuiamo a passare, cantare, suonare, per quanto mi riguarda a volte anche indegnamente a fare delle cover delle canzoni di Sergio Endrigo. Ma scherzi, è stato un grande piacere veramente anche per me, grazie. Ciao Claudia. Ciao. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Nel 74, assieme a Paolo Margheri e a Riccardo Del Turco, Endrigo compone una nuova canzone che si chiama Nelle mie notti. Poi passano 20 anni, molte cose cambiano, tra queste anche il fatto che il sodalizio tra Endrigo e Bacalov sia finito da tempo. Non c'è stata una lite, ma semplicemente la vita che cambia. Nel 94 però per Bacalov arriva un importante riconoscimento, perché la colonna sonora originale da lui composta per il film Il Postino, l'ultimo film interpretato da Troisi, vince l'Oscar come miglior colonna sonora. I don't have the envelope, so I'd like us all to have a psychic moment. Let's just concentrate. It's coming to me. Oh, you can do better than that. Oh my God, it's Il Postino. Beh, la somiglianza tra questi due temi è veramente tanta, un po' troppo. E in questi casi è difficile dimostrare che due brani si assomiglino o che sono uguali. Quindi parte tutta una ridda di lavoro per periti, controperiti, esperti che si combattono sulle righe di un pentagramma. Insomma, nel 95 inizia una lunga disputa tra i due ex collaboratori. È una battaglia legale che si trascina per molti anni tra i periti. Viene chiamato anche Ennio Morricone, che ovviamente prende le parti di Bacalov, perché insomma, quando si fa una colonna sonora di un film spesso si ricicla cose già fatte o cose vecchie o cose sentite, quindi chi è senza peccato scagli la prima pietra. Però Endrigo è sicuro che i due pezzi si assomiglino troppo e così continua la sua battaglia. Beh, gli anni però passano, la giustizia è lenta, è troppo lenta soprattutto per lui, per Sergio Endrigo, che il 7 settembre 2005 muore nella sua casa di Roma per un cancro ai polmoni, e la sentenza arriverà solo nel 2013, altri 8 anni dopo la morte, 18 anni dopo l'inizio della causa. Sarà una mezza vittoria, perché la paternità dell'opera verrà riconosciuta sia a Bacalov che a Endrigo, a Del Turco, a Margheri. E Bacalov dichiara in diverse interviste di aver voluto accettare questo compromesso perché stanco di portare avanti questa storia dopo così tanti anni. È una mezza vittoria anche per lei, per Claudia Endrigo, perché sa che suo padre non ha avuto la soddisfazione di vedere con i suoi occhi l'epilogo di questa storia. Di Endrigo ci rimangono ancora oggi le sue bellissime canzoni e l'ironia nel rispondere a chi gli diceva di essere considerato un cantante triste. Io ho una faccia che non ha un sorriso spontaneo come quello di Morandi, no? Che quando canta una canzone tragica ride. Mi ricordo che il primo servizio fotografico che ho fatto qui a Roma con Glauco Cortini, nello studio, mi ha detto: Endrigo, sorrida. E sto sorridendo. Ma non si vede. Abbiamo scelto ogni giorno di raccontarvi vite straordinarie, vite di grandi personaggi che hanno saputo dare dei grandi colpi d'ala, ma soprattutto che hanno saputo lasciare un segno della loro presenza sulla terra. E Sergio Endrigo è uno di questi, ha scritto e cantato canzoni meravigliose e io personalmente, insomma, lo considero uno dei più grandi cantautori che l'Italia abbia avuto. Vi aspettiamo con altre storie, vi ricordiamo che il podcast vi dà la possibilità di riascoltare il nostro programma ogni volta che voi lo volete, e se vi siete persi qualcosa, volete risentire qualcosa, il podcast fa al caso vostro. Segnalateci le vostre storie ovunque, anche nei miei e nei nostri social, insomma, se mi cercate sapete dove trovarmi. Ciao. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Pipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.